Letture di Radio 24. Due libri di recente pubblicazione, Bohémienne del Marchese di Pelleport e Il Porto delle Nebbie di Pierre Macourlin, riportano in auge il mito dei Bohémienne. Sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, Luigi Scaraffia traccia una breve storia degli artisti marginali e della loro rivoluzione estetica. La Bohème c'è sempre stata. Anche sotto i regimi autoritari, un gruppo di persone sventate e indipendenti ha scelto una vita più libera e meno protetta. Un modo di esistere che non si lascia schiacciare dal peso del futuro, ma vive giorno per giorno, spensieratamente. La Bohème, scrive Pierre Labrasserie, è uno stato d'animo. La Bohème è sempre esistita, anche quando non si chiamava ancora con questo nome. Un omaggio agli zingari, originari appunto della Boemia, e al loro modo nomade, edonista e disordinato di vivere, in contrasto con la ben regolata stanzialità della borghesia. Il termine affiora la prima volta, sembra, solo nel 1659, nelle pagine di Talmand de Réau, per descrivere un personaggio marginale, eccentrico e gaudente. Diderot e Rousseau avevano fatto parte di quella fauna pittoresca che vivacchiava ai confini della legalità, ma poi, pur seguitando a criticare il dispotismo, si erano integrati. Nella Francia pre-rivoluzionaria si era creata una frattura tra la prima e la seconda generazione degli illuministi, che sopravvivevano a stento, confezionando opere pornografiche o libelli, guardando con rancore ai grandi dell'illuminismo, accolti e apprezzati ovunque. Alcuni divennero spie della polizia, altri si diedero al contrabbando di testi proibiti. Molti contribuirono alla redazione e alla diffusione della massa di pamphlet calunniosi contro la corte e i ministri del re. Pochi di loro erano destinati a emergere, ma fu proprio uno di loro, il marchese de Pelleport, compagno di prigionia di Sade alla Bastiglia, a fare nel 1790 uno spiritoso ritratto condito di oscenità di quell'ambiente saturo di umori e di aspirazioni. Pelleport, spiega Danton, era un reietto di origini aristocratiche, scivolato tra la massa dei libellisti dopo una carriera fallimentare nelle forze armate e una condotta tanto disonorevole da finire in carcere su richiesta della famiglia. Chi meglio di lui poteva ritrarre quegli individualisti inquieti, in fuga dalla realtà e dai suoi doveri? Ma è l'Ottocento la vera culla di questo gruppo sociale blandamente irriducibile. Esaltata dal romanticismo, la figura dell'artista era destinata a incarnare un pittoresco senso della vita, sempre più estraneo ai rigori della borghesia. Arte, passioni e dissipatezza erano la norma dei Bohémiens. Non importava se pochi tra loro erano dei veri creatori, l'arte era diventata un pretesto per non accettare le norme della produttività. Tra quegli irregolari per indole o per scelta, affioravano dei geni come il giovane Balzac, che spiegava: «La parola Bohème dice tutto. La Bohème non ha nulla e vive di tutto quel che ha. La sua religione è la speranza. La sua legge è la fiducia in se stessi. Il suo budget sembra essere la carità. Tutti quei giovani sono superiori alle sventure, al di sotto della fortuna, ma al di sopra del destino». È in quei decenni che si forma il mito dell'artista maledetto, creatore di un'opera troppo superiore alla mediocrità del mondo e destinato a perdersi prima del riconoscimento. Del resto, anche quando il riconoscimento arrivava, come nel caso di Murger, autore delle scene della vita di Bohème, ispiratrici della Bohème di Puccini, spesso era ormai troppo tardi. La Bohème non ha niente a che vedere però con altre comunità ai margini della società, come gli Apache o altri pittoreschi raggruppamenti legati al mondo del crimine, il che non significa che tra i due gruppi marginali possano esserci contatti. Del resto, la vita di un grande poeta, François Villon, morto impiccato, ne è la prova. Nel La Pena Gilles, un fumoso locale di Montmartre, in cui passavano tutta l'avanguardia e tutti gli irregolari dell'epoca, è ambientato il romanzo di Macourlin, bravo scrittore apprezzato da Proust, Artaud e Prévert, e ora ingiustamente trascurato. Macourlin allora abitava nell'immenso baraccone senza finestre noto come il Bateau Lavoir. Aveva arredato la sua stanza con pile di giornali invenduti, che gli facevano da letto, sgabello e tavolo, nonché, nelle notti d'inverno, da coperta. Sotto quell'insegna, un coniglio che saltava via da una pentola stringendo una bottiglia di vino tra le zampe, erano passati Toulouse-Lautrec, Manet, Verlaine, Apollinaire, Modigliani, Jacob, Giacometti, Cendrars e Picasso, per fumare hashish, sorseggiando vino caldo o una combinazione in cui una ciliegina all'acquavite nuotava in un lago di granatina, pernod e liquore di ciliegia. Ma non c'erano solo uomini. La vera celebrità era Lolo, un quieto asinello, e tra i tavoli sciamavano una capra, un cane e una cornacchia. I malviventi che avevano ucciso il figlio del padrone, l'eccentrico Fredet, erano sempre più rari, anche se, come racconta il libro, potevano riaffiorare dalla nebbia del passato a minacciare quella povera oasi della Bohème. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Scaraffia «Chi vuole essere bohemien?» dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. La proposta di abolire la prostituzione lanciata dal nuovo ministro francese per la difesa delle donne ha scatenato non poche reazioni, come racconta Annalena Benini sul Foglio. C'è chi afferma che un simile divieto non farebbe sparire la prostituzione, ma la renderebbe ancora più clandestina. Ma c'è anche chi, come fa il filosofo Arismendi Ruben, intervenendo su Le Monde, sostiene che non si possa abolire un atto che avviene tra due adulti consenzienti. È difficile non avere una cattiva opinione di una cosa che viene chiamata vendita del corpo. Chiama alla mente trafficanti di organi, reni strappati di dosso a vittime ignare, piccoli corpi profanati, cuori in saldo e, nella migliore delle ipotesi, donne schiave dei commerci altrui. Ma vendita del corpo è una definizione terribile anche quando viene riferita a signore adulte che esercitano la libertà di dare sesso in cambio di denaro. E a uomini desiderosi di acquistare questo servizio lungo una strada, di notte, su appuntamento, di giorno, a casa tua, a casa mia, in un motel, dentro un'automobile. In Islanda, piccolo paese molto virtuoso, nemmeno la lap dance è permessa, perché la legge ha messo al bando ogni commercio che implichi nudità, cioè vendita del corpo. Roberta Tatafiore, femminista che passò la vita a difendere i diritti delle prostitute, non aveva problemi ad accettare questo modo di raccontare la prostituzione, replicando che il corpo è mio e me lo gestisco io, deve valere sempre, e non solo per il nubilato, il lesbismo e la maternità. Ragionamento che dovrebbe bastare a far desistere l'Assemblea Nazionale Francese dall'intento, secondo molti ipermoralista, di abolire la prostituzione. Che farsa! Quando non ha niente da dire o per schivare le questioni delicate e urgenti, l'Assemblea Repubblicana segue la solita brava posizione della Chiesa. Comincia a fare della morale sessuale e della più reazionaria, ha scritto domenica sul Monde il filosofo Arismendi Ruben, criticando con ardore i gruppi cosiddetti femministi che, con l'arroganza propria del moralista, vogliono abolire il comportamento sessuale degli adulti consenzienti. Per i libertari e i libertini è un affronto, uno scandalo, un colpo al cuore. Anche la riduzione a mero commercio di una relazione complessa. Il dannato bisogno di incasellare sempre tutto, di codificare l'esistenza, individuare le vittime e i carnefici, ciò che si deve e che non si deve fare. Soprattutto adesso, dopo il caso di Dominique Strauss-Kahn, che è diventato subito il simbolo di una degenerazione che un paese illuminato deve essere in grado di cancellare. Ma allora, se codificazione deve essere, scrive questo filosofo infuriato ed empatico che utilizza il punto di vista del cliente della prostituta, che venga fatta una codificazione almeno esatta. Non c'è alcun commercio del corpo, sostiene il Monde, attraverso l'apologia della prostituzione di Arismendi Ruben. È curioso che coloro che sostengono giustamente il rispetto per la sfera intima della persona siano proprio le stesse persone che usano questa espressione, vendita del corpo. È inappropriato parlare di un atto del genere come se il corpo fosse qualcosa di altro, di esterno al soggetto. E anzi, secondo Ruben, lo stesso principio del rispetto della sfera intima, citato come elemento contro la prostituzione, finirebbe per nobilitarla. Perché tra due persone si instaura una relazione pienamente umana attraverso questa vendita di piacere, di reciproche, attive e passive carezze sessuali. Non è solo una questione di libertà, ma anche di umanità e complessità dei rapporti umani. Ruben, in un quadro parecchio romantico dei rapporti prostituta e cliente, cita la relazione d'affetto reciproco che si instaura, la fedeltà di un cliente che la maggior parte delle volte cercherà sempre la stessa donna, la diversità di azioni che mettono in risalto ogni prostituta, rivelando la differenza dei temperamenti e delle personalità, l'importanza che il cliente dà all'accoglienza, all'espressione del volto, alle parole, alla seduzione messa in atto dalla prostituta. Ma potrebbe essere anche un uomo, così come il cliente potrebbe essere una donna. La prostituzione è troppo complessa per essere ridotta a una vendita, a una divisione in buoni e cattivi, a un mestiere da vietare, a una condanna assoluta, opzione non molto democratica. Forse non è il rapporto ideale tra uomini e donne, ma come testimoniano il filosofo francese e la letteratura, implica una relazione pienamente umana. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, Prostituzione, dal Foglio del 24 luglio. Pubblicato nel 1899, Il risveglio è il romanzo più famoso di Kate Chopin, scrittrice americana riscoperta di recente e considerata una delle pioniere del femminismo. La protagonista è Edna, giovane donna anglosassone sposata con Léonce Pontellier, uomo d'affari di origine francese. È durante una vacanza a Grand Isle, nella Louisiana, che in Edna avviene il risveglio, la presa di coscienza di sé, assieme al desiderio di emanciparsi dal chiuso ambiente borghese in cui vive. Una sera, rientrata in anticipo da una gita in spiaggia col marito e gli amici, Edna decide di non andare subito a dormire, ma di fermarsi un po' di tempo in veranda. «Che cosa fai qui fuori, Edna? Pensavo di trovarti a letto», le disse il marito quando si accorse che era sdraiata lì fuori. Aveva accompagnato la signora Lebrun davanti a casa. Sua moglie non gli rispose. «Dormi?» chiese, chinandosi per guardarla da vicino. «No». Gli occhi le risplendevano luminosi e immensi, senza ombra di sonno, mentre lo guardavano. «Sai che è luna passata? Andiamo!» E salì gli scalini per entrare in camera da letto. «Edna!» chiamò dall'interno il signor Pontellier dopo alcuni minuti. «Non aspettarmi», rispose lei. Lui allungò la testa fuori della porta. «Prenderai freddo lì fuori», disse con irritazione. «Che follia è questa? Perché non entri?» «Non fa freddo, ho il mio scialle. Le zanzare ti divoreranno. Non ci sono zanzare». Lo sentì muoversi nella stanza. Ogni rumore indicava impazienza e irritazione. Altre volte si sarebbe arresa alla sua richiesta. Avrebbe ceduto al suo desiderio per abitudine, non con sottomissione o per obbedienza ai costrittivi desideri di lui, ma senza riflettere. Così come si cammina, ci si siede, ci si muove o ci si alza, e si passa attraverso il quotidiano lavoro forzato della vita che ci è stato assegnato. «Edna, cara, non vuoi rientrare subito?» chiese lui di nuovo, questa volta con passione, con un tono di supplica. «No, resterò qui fuori». «Questa è più che follia», sbottò lui. «Non posso permetterti di restare là fuori tutta la notte. Devi rientrare immediatamente». Con un motto di dispetto, lei si sistemò in una posizione più sicura sull'amaca. Si rese conto che la sua volontà si era svegliata, volitiva e caparbia. In quel momento non avrebbe potuto far altro che rifiutarsi e resistere. Si chiese se suo marito le avesse mai parlato prima con quel tono e se lei si fosse sottomessa ai suoi ordini. Naturalmente sì, l'aveva fatto, se ne ricordava. Ma non riusciva a rendersi conto del perché o del come avrebbe dovuto arrendersi, provando ciò che provava in quel momento. «Léonce, vai a letto», disse. «Ho intenzione di restare qui fuori. Non voglio rientrare. E non intendo farlo. Non parlarmi più in quel modo. Non ti risponderò». Il signor Pontellier era già pronto per andare a letto, ma si infilò addosso qualcosa per coprirsi. Aprì una bottiglia di vino di cui, in un mobiletto, conservava alcune bottiglie speciali di suo gradimento. Ne beve un bicchiere, uscì sulla veranda e ne offrì anche alla moglie, che non l'accettò. Lui trascinò il dondolo. Vi si sedette, puntando i piedi in pantofole contro la ringhiera, e cominciò a fumare un sigaro. Fumò due sigari. Poi entrò e beve un altro bicchiere di vino. La signora Pontellier di nuovo rifiutò di bere quando Léonce glielo offrì. Il signor Pontellier si rimise a sedere con i piedi appoggiati contro la ringhiera e dopo un ragionevole intervallo di tempo fumò altri sigari. Edna cominciava a sentirsi come chi si sveglia, per gradi, da un sonno grottesco, delizioso, impossibile, per sentire di nuovo le cose reali che facevano presa sulla sua anima. Il bisogno fisico di dormire cominciava a prendere il sopravvento. L'entusiasmo che l'aveva sostenuta ed eccitata la lasciò inerme e condiscendente alle sensazioni che le si affollavano dentro. L'ora più immobile della notte era sopraggiunta, l'ora che precede l'alba, quando il mondo sembra trattenere il respiro. La luna splendeva bassa. Da argento era diventata del colore del rame nel cielo addormentato. Il vecchio gufo non ululava più. Le querce marine avevano smesso di lamentarsi mentre chinavano il capo. Edna si alzò. Dopo essere rimasta così a lungo immobile sulla maca, aveva i crampi. Salì barcollando gli scalini e prima di entrare in casa si afferrò debolmente al pilastro. «Rientri anche tu, Léonce?» chiese volgendo il viso verso il marito. «Sì, cara», rispose lui, inseguendo con lo sguardo uno sbuffo di fumo. «Appena avrò finito il sigaro». Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal romanzo di Kate Chopin, Il risveglio. Edizioni Nobel, 220 pagine, 14 euro.